non manca assolutamente l'appuntamento del venerdì, anche se periodo di ponte, vacanze per alcuni, buon per voi. Benvenuti su Rock FM, lo spazio di Arden Devi, la voce di Marco Gravelli. Come solito ringrazio Simone per aver preparato la tracklist, le notizie, le biografie di queste due band storiche, diciamo agli antipodi tra di loro, una band tra i migliori esponenti del mondo hard rock già dagli anni fine 60, cioè i Deep Purple, e l'altra gli alfieri del true metal, cioè i Manowar. Saranno loro i due protagonisti dello spazio live. Sapete che al venerdì ritroviamo appunto le proposte live da CD oppure da vinili ufficiali, e a volte anche le interviste come la scorsa settimana con gli Helloween. Allora, protagonisti sono i Deep Purple. Deep Purple è con una vastissima proposta di dischi live, ma veramente tanti. E forse è troppo scontato andare su Made in Japan, anche per via della lunghi assori presenti. Forse nei nostri 30 minuti avremmo proposto soltanto un paio di pezzi. Così la nostra scelta è caduta su Nobody's Perfect, uscito nel 1988, è un doppio vinile. Arrivò al numero 5 in Svezia e Norvegia, 12 in Finlandia, 38 in Inghilterra. Il totale 13 tracce, è uscito anche in CD con 11 nella versione normale, 14 nella versione estesa. L'album è stato registrato durante il tour europeo ed americano che si era tenuto tra il 1987 e il 1988. Le nazioni scelte, attenzione, anche l'Italia, precisamente la data che tennero a Verona, poi Stati Uniti, Inghilterra e Norvegia. La line-up, beh, quella, definiamola classica, con Ian Gillan alla voce, Ian Pace alla batteria, Roger Glover al basso, John Lord alle tastiere e lui, Richie Blackmore, alla chitarra. Quindi non potevamo sceglierne altri, abbiamo scelto questo anche per i motivi che vi ho spiegato. La scelta dei brani è difficile, alcuni li abbiamo catturati appunto tra i best della loro produzione. Andiamo a proporre e dare lo start all'ascolto di questo Nobody's Perfect. Poi vi proporremo anche un concentrato della lunghissima storia della band. Il motivo con il quale apriamo l'appuntamento di questa sera di Arden Devi si intitola Highway Star. sono tutte canzoni che hanno fatto la storia, eh? Storia della musica. Deep Purple da Nobody's Perfect. Questo è il doppio live che prendiamo in considerazione questa sera, aperto proprio dal brano intitolato Highway Star. Ricordiamo la formazione dei Deep Purple, la conoscono tutti, eh? Famosissima in tutto il mondo, arrivano dall'Inghilterra. Il gruppo nasce nel 1968 quando il tastierista John Lord e il chitarrista Ritchie Blackmore decidono di creare una nuova band a nome Deep Purple, coinvolgendo Ian Paice alla batteria e Rod Evans alla voce. Dopo la pubblicazione del singolo Hush, un brano non scritto da loro, però anch'esso molto famoso, riproposto da tanti altri artisti e gruppi, ebbe un buon successo questo singolo in America. Arrivano così all'esordio discografico sempre nel 1968 con l'album Shades of Deep Purple, che andò molto bene in America, arrivando addirittura al numero 24 nelle posizioni di classifica. Importante, poi seguirono altri album, però quello importante è il quarto, cioè Deep Purple in Rock, quando, e siamo nel 1970, entrano un nuovo cantante e un nuovo bassista. Sono Ian Gillan e Roger Glover. L'album ottiene un grande successo in patria, arrivando al numero 4, oltre al primo posto in Finlandia e un tour mondiale. Il successo è ancora maggiore nel 71 con l'album Fireball, primo posto in Inghilterra, Germania, Svezia e terzo posto in Italia. Diciamo che è il periodo d'oro per i Deep Purple, tanto che il successivo, il famosissimo Machine Head del 1972, il cui brano più rappresentativo, lo ricordo, è il loro mega classico Smoke on the Water, è nuovamente primo in molte nazioni. Si rivela un successo anche in America. Altro brano che andiamo ad ascoltare, qui variamo e cambiamo totalmente il periodo, perché Highway Star è di un certo periodo. Il brano che andiamo a proporre quest'oggi è Perfect Strangers, che arriva tanti anni dopo, anche dall'omonimo album. Questa è appunto la versione live da Nobody's Perfect, con Ian Gillan, Ritchie Blackmore, John Lord, Roger Glover, Ian Paice, Deep Purple. Remember my name as I float. Strangers, Deep Purple, un grande gruppo, un grande lavoro, delle grandi canzoni, live in questione del 1988, Nobody's Perfect. Abbiamo ascoltato quindi sequenza Highway Star, Perfect Stranger, continuiamo con la storia della band e arriviamo alla pubblicazione di quello che a tutt'oggi è considerato in assoluto uno dei migliori lavori della scena hard rock dal vivo, cioè Made in Japan, un doppio album dalla copertina dorata che viene appunto stampato dopo il grande successo di Machine Head. L'album seguente si intitola Who Do You Think We Are? E siamo al 1973, attenzione, perché Ian Gillan e Roger Glover, coloro che erano entrati e avevano un po' cambiato la scena musicale della band, erano entrati con l'album in rock, entrambi se ne vanno. E lì ci sono un po' di problemi, litigi spesso, soprattutto, lo sapete anche meglio di me, con Ritchie Blackmore. Il loro posto viene preso da Glenn Hughes, che verrà praticamente impiegato solo per il basso, anche se aveva dimostrato ottime qualità vocali, tanto che oggi è conosciuto come The Voice of Rock, e dalla voce viene scelto un altro grande, ossia David Coverdale. Ecco, diciamo che abbiamo scelto come live per rappresentare Deep Purple uno con la formazione storica, quindi con Gillan Glover, però non è detto che in futuro possiamo anche proporre un live con Glenn Hughes, il periodo con Glenn Hughes, David Coverdale, e c'era anche Tommy Bolin alla chitarra. Bene, il successo con l'ingresso di Glenn Hughes e David Coverdale rimane inalterato con un altro album classico dal titolo Burn, che come i precedenti raggiunge le prime posizioni in Europa. Segue un altro grande lavoro, Starbringer, che vedeva sonorità però più blueseggianti in alcune canzoni. Questa svolta musicale fece sì che Blackmore abbandonò il gruppo per poi fondare i Rainbow, e il suo posto viene preso da colui che vi ho citato in precedenza, Tommy Bolin. Ci fermiamo per ascoltare un altro brano, beh, questo è il loro motivo che forse più li rappresenta, Smoke on the Water. on the sky. I got a few things to say which I decided to mention right now. First of all, we've been in town for about 3 days. I've never in my life spent a more enjoyable 3 days than I have in Oslo. It's absolutely fantastic. You people have been so nice. I've been drunk from 9 o'clock in the morning till 9 o'clock in the morning because you've all been buying me drinks. You are sensational. And thank you to all of those of you who travelled such a long way. And I know you've come a long way from this, from Trondheim and everywhere. I can't hear you. Tante versioni, quante volte l'hanno suonata dal vivo, ma incredibile. Smoke on the Water da Nobody's Perfect. Arriviamo quindi all'ultima parte della nostra storia. Abbiamo detto che entra Tommy Bolin al posto di Blackmore, però Tommy Bolin si porta dietro tanti problemi con la droga. Con lui pubblicano un album, Come Touch the Band, ma le sue condizioni fisiche creano problemi durante il tour, tanto che David Coverdale abbandona la band per poi formare gli Whitesnake. E purtroppo arriva anche la morte per overdose di Tommy Bolin. A quel punto i Deep Purple si sciolsero. La reunion avviene nel 1984 con la lineup classica, quindi Gillan voce, Blackmore chitarra. Il risultato è l'album Perfect Stranger, che li fa tornare al successo. Segue un altro album e quindi questo live che stiamo presentando, Nobody's Perfect. Dopo il live però Gillan, sempre a causa di dissapori con Blackmore, lascia la band. Il suo posto viene preso però da un altro grande cantante della scena hard rock, cioè Joe Lee Turner, ex Rainbow, che canterà anche poi successivamente nella band di Malmsteen. Con lui registrano Slaves and Masters, ma subito dopo ritorna Ian Gillan alla voce. Dopo un album però, è qui tutto un vai e vieni, Blackmore lascia definitivamente Deep Purple e viene sostituito temporaneamente da Joe Satriani e quindi definitivamente da Steve Morse, che è ancora oggi in lineup. Seguono altri due album, Perpendicular e Abandon, ed arriva l'abbandono anche di John Lord. Il suo posto viene preso da un altro grande, cioè Don Airey, che aveva già suonato con Ozzy Osbourne, Whitesnake e Rainbow. Con lui registrano gli ultimi due album in studio, cioè Bananas del 2003 e Rapture of the Deep del 2005. Tenete presente che questi sono gli album in studio, poi sono usciti una marea di DVD live, di altri album live, eccetera. A proposito di musica dal vivo, i Deep Purple suoneranno, se mai li avete visti, beh, questa è l'occasione per vederli dal vivo, sono ancora in ottima forma, dobbiamo dirlo, e suoneranno il 9 di novembre, quindi tra poco, al Palasport di Pordenone, il 10 di novembre al Palasport di Mantova e il 12 novembre al Palazzetto dello Sport di Varese. E siamo arrivati al termine, visto anche il tempo a disposizione, chiudiamo con il brano che chiudeva questo Nobody's Perfect del 1988, il brano che praticamente li ha un po' lanciati all'inizio della loro carriera, cioè Un motivo, intitolato Hush, brano non loro, che però spesso proponevano dal vivo e avevano anche ripreso per questo tour. Hush, Deep Purple, e tra breve seconda parte di Hard and Heavy su Rock FM. Feel so bad. Deep Purple, seconda parte di Hard and Heavy per questo venerdì sera su Rock FM, spazio offerto da Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 qua a Milano. Abbiamo il primo dei vari album live pubblicati dai Manowar, si intitola Hell on Wheels, uscito nel 1997, a ben 15 anni di distanza dal loro primo album d'esordio. È un doppio CD, si compone di 23 tracce, praticamente tutti classici del primo periodo della band. Le tracce sono registrate dai vari concerti che hanno tenuto in diverse nazioni, quali Germania, Argentina, Ungheria, Spagna, Svizzera ed Austria. È arrivato al numero 37 nelle charts tedesche. Allora, andiamo naturalmente a segnalare il fatto che i Manowar sono una delle più importanti band di epic heavy metal insieme ai Virgin Steel, nonché la più rumorosa, visti gli altissimi volumi che tengono durante i loro concerti. Da sempre si proclama di suonare il vero metal, il true metal, e celebre è anche il loro motto Death to False Metal. Il primo pezzo che ascoltiamo è proprio il brano che apriva questo CD, la cui versione in studio è nel primo album, nell'album Balo Hymns. Si chiamano Manowar e questa è proprio Manowar da Hell on Wheels. Bye. Manowar, Manowar, dall'album Hell on Wheels con Carl Logan alle chitarre, Eric Adams alla voce, naturalmente Scott Columbus alla batteria, Joe Di Maio invece il leader basso e tastiere. E questo è appunto il tour del 1996-1997. In effetti l'album esce, come vi dicevo, proprio nel 1997 a livello di pubblicazione. E che ne dica la nostra Claudia, anche lei è citata tra coloro che hanno fede e che credono nei Manowar, con tanto di nome e cognome. Cara Claudia, che mi seguirai, è inutile che ti nascondi, però il tuo nome è ben messo in evidenza. Claudia Tonella, eh sì, la nostra Claudia, amica comunque di Eric Adams e del resto della band. Abbiamo ascoltato il pezzo intitolato Manowar. Ricordiamo che la formazione è americana, esattamente di New York, nasce nel 1980 quando il bassista Joe Di Maio, che all'epoca lavorava come tecnico per i Black Sabbath, incontrò il chitarrista Ross The Boss, che suonava negli Shaking Street, che era il gruppo di supporto dei Black Sabbath stessi per un tour. Da lì decisero di creare una band e per completare la lineup fu scelto come vocalist Eric Adams, che era amico di De Maio. Dopo una breve esperienza come cover band, cominciano a scrivere brani propri e grazie ad un demo del 1981 ottengono un contratto con la Liberty Records, che ne pubblicherà l'album d'esordio Battle Hymns. Siamo nel 1982. L'album fu ben accolto da critiche e pubblico e da subito si fecero notare per il loro atteggiamento sul palco, sia per i costumi, che spesso mettevano in evidenza anche le loro chiappe, costumi da barbari, e anche per l'utilizzo di volumi molto molto elevati, tanto che per diversi anni entrarono nei Guinness dei primati. Altro motivo che andiamo a proporre si intitola Kill with Power, la cui versione in studio è presente nell'album intitolato Hail to England. Yeah. Power, motivo che è stato registrato a Madrid. Vi dicevo, sono 23 i brani in totale. L'ultimo, ho controllato, l'ultimo è Battle Hymn, quello che chiude il secondo CD. È stato registrato a Milano nell'edizione del Gods of Metal del 1997. Era il sabato 7 di giugno, almeno così viene riportato sulle note di copertina. Dopo Manowar, Kill with Power, continuiamo, brani che abbiamo ascoltato, continuiamo a parlare della loro storia. Arriviamo al secondo album, dopo Battle Hymns nell'83 esce Into Glory Ride, l'album più epico che abbiano mai composto, è anche uno proprio dei capolavori dell'epic metal in generale. E c'è da segnalare l'ingresso del batterista Scott Columbus. Visto l'epicità dell'album, i quattro musicisti comparivano in copertina vestiti da guerrieri barbari. Segue poi l'album intitolato Hail to England, dedicato ai fans inglesi a causa di un tour che dovettero annullare in Inghilterra, quindi gli dedicarono addirittura un intero album. Il lavoro cominciò a entrare nelle classifiche di vendita inglesi molto indietro, comunque 83esimo posto. Il successo fu piano piano graduale, anche con il seguente album che andò meglio, cioè Sign of the Hammer. E proprio da quell'album in studio c'era questa canzone che qui viene rappresentata naturalmente dal vivo, brano che è stato registrato in questo caso in Olanda. Il pezzo si intitola Thor, The Power Head. Sono i Manowar dal primo live album Hell on Wheels. Power Hand, la formazione dei Manowar da Hell on Wheels. Continuiamo a parlare della loro storia. Abbiamo detto che è uscito l'album Sign of the Hammer. Dopo quello arriviamo praticamente al successivo lavoro del 1987, Fighting the War, che benché contenesse delle ottime canzoni fu definito dai fan un album piuttosto commerciale. Ricordiamo appunto la famosa Fighting the War, oppure Defender, Black Wind, Fire and Steel, che è un loro classico naturalmente. Arriviamo però al 1988, quando esce, a detta di molti, il loro capolavoro, il famoso Kings of Metal, che è anche il loro album più venduto. La particolarità è che da quest'album in poi utilizzeranno sempre nelle loro copertine dei loro album in studio il guerriero senza volto, perché ognuno dei loro fan si può identificare in esso. Con quest'album raggiungono il vero successo e intraprendono anche un lungo tour mondiale, al quale segue però l'abbandono del chitarrista e cofondatore Ross The Boss e anche del batterista Scott Columbus. In precedenza abbiamo citato Fighting the War e anche il brano che andiamo ad ascoltare. Fighting the world! Fighting the World. Questa è stata registrata dal vivo in Svizzera. Ripeto che dei 23 brani sono quasi tutti registrati in città, in nazioni differenti, addirittura Argentina e anche San Paolo del Brasile, oltre al già citato Italia, Spagna, Svizzera, Austria, Ungheria e naturalmente la Germania, paese forse in Europa dove sono insieme all'Italia tra i più conosciuti e popolari. Arriviamo quindi alla fase finale della storia della band. Parliamo del fatto che il Ross the Boss, chitarrista, e Scott Columbus se ne sono andati. Scott Columbus designa lui stesso il suo sostituto con un certo Rhino, mentre come chitarrista viene scelto David Schenkel. Con questi due nuovi ingressi esce l'album Triumph of Steel, la cui prima traccia dura qualcosa come ben 28 minuti. Nel 93 però cambio di formazione di nuovo con l'ingresso di Carl Hogan alla chitarra e nel 95 si ha il ritorno dietro le pelli di Scott Columbus. Questa formazione è a tutt'oggi quella stabile. Segue l'album Louder Than Hell del 1996 che nonostante fosse qualitativamente inferiore ai precedenti arrivò al numero 7 in Germania e li portò in Italia come headliner per la prima edizione del Gods of Metal e come vi dicevo il brano che chiude questo lavoro, Bad Olim, è stato registrato proprio in quella occasione, in quel festival. Seguono l'album Warriors of the World del 2002, l'ultimo Gods of War uscito nel febbraio di quest'anno, il tutto infarcito anche da pubblicazioni di CD dal vivo. Questo che abbiamo ascoltato questa sera è il primo e francamente quello che vi consiglio. Sì, ce n'è stato un altro che va a implementare brani che non sono presenti in questo primo doppio album. Diciamo che i primi due, se siete amanti delle pubblicazioni live, i primi due CD dal vivo sono da avere. Con questo chiudiamo il nostro appuntamento di questa sera con l'ultimo brano che si intitola Kings of Metal. Ringrazio come sempre il nostro sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano, sito internet www.mariposadischi.it. Ricordo il sito della radio perché c'è l'opportunità, se perdete qualche puntata di Hard and Heavy, di riascoltarla interamente. Il nostro sito è www.radiorockfm.com. Un grazie a voi, un buon weekend, un grazie a Simone per aver preparato il tutto. Ci ritroviamo il prossimo lunedì dalle 20 alle 21 su Rock FM per un altro spazio di Hard and Heavy. Da Marco Gravelli è tutto, questa è Kings of Metal. Ciao! Man of war,